Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate sulle onde mediocri di Radio Wombat, 13.59 appunto onde medie, e queste sono le porte di Tannhäuser. Bentrovati e bentrovati, Radio Wombat, come sempre 13.59, onde mediocri, e radiowombat.net, il sito. E che altro diciamo? Diretta Wombat, anzi pad.cisti.org, perché diretta wombat.vado.it, scusami, punto lì. E poi che abbiamo il... Stai scrivendo anche tu sul pad? Sì, a cosa a caso. E poi che altro stavo dicendo? Bah, niente, forse solo questo. No, la mail, posta wombat, @insiberia.net. Vabbè, basta, questi sono i nostri contatti. Ci aspetta una puntata... lunga e un classico, un grande classico. D'altronde siamo vicini alla Pasqua, alla Santa Pasqua, e ci sentivamo di dover in qualche modo dare il nostro contributo. Certo, certo. Ci sentiamo molto, come sapete. E quindi parleremo di fantascienza e religioni. Esatto, parleremo di fantascienza e religione sotto molti aspetti, soprattutto nella letteratura. C'è veramente una vasta scelta di indagini fantascientifiche su questo tema. Ne tratteremo un pochine, vediamo se le trattiamo tutte, insomma tutte quelle che abbiamo preparato noi in questa puntata, o se suddividerla in due, capiamo un po' il tempo se sarà a nostro favore. Iniziamo però subito con un pezzo e poi partiamo subito a parlare di religione e fantascienza. Sono le porte di Tannhäuser, ore 21:50, rimanete con noi, Wombat. We'll be right back. Eccoci qua, come promesso, su Radio Wombat. Questo sono le porte di Tannhäuser e adesso, proprio ora, parliamo di fantascienza e religione. Che mixing che hai fatto, ragazzi. Passano gli anni e qui ci si... Sempre meglio. Sempre meglio. Quindi dopo che ci facciamo i complimenti da sole alle grandi pacche, sì, si è sentita anche. Allora, iniziamo per questa puntata di oggi delle Porte di Tannhäuser, che, come vi abbiamo già anticipato, parlerà di fantascienza e religioni. Partiamo intanto da un consiglio di un'antologia che si chiama Nostra Signora degli Alieni, racconti di fantareligione, a cura di Walter Catalano e Gianfilippo Pizzo, che è uscita questa antologia nel 2017, un'antologia di autori vari, di scrittori che hanno scritto su questo tema. E già Walter Catalano e Gianfilippo Pizzo erano purtroppo una coppia meravigliosa, molto interessanti le cose che hanno fatto. Hanno curato spessissimo insieme molte antologie, molti libri critici riguardo la fantascienza, il fantasy, la letteratura fantastica. Gianfilippo Pizzo purtroppo è morto nel 2021, quindi ahimè ci ha lasciato da sole su questo mondo. E però è molto interessante quando le trovate, le loro cose hanno sempre un punto di vista molto critico, spesso anche ironico e dissacrante, che vi consigliamo, ecco. Assolutamente, veramente interessante questa antologia. E lì chiaramente abbiamo preso diverse cose per la puntata di oggi da questa antologia, quindi vi diciamo questo primo spoiler, lo buttiamo sul piatto all'inizio, ecco. Allora, religioni, abbiamo deciso un pochino arbitrariamente, anche se andremo come sempre un po' a braccio, però abbiamo un po' trovato dei macro temi, dei macro argomenti per provare a spezzare l'argomento, che come sempre noi all'inizio ci diciamo vabbè, ci saranno due o tre cose, e invece poi si apre un tombino infinito. E partiamo quindi da un po' questo macro tema che è le religioni e il potere, chiaramente due temi che per certi versi potrebbero essere sinonimi. Ovviamente religione è potere, potere è religione, questa cosa la ritroviamo, insomma, non serve la fantascienza a dircelo. E sono diversi effettivamente i romanzi che presentano delle religioni futuribili, futuristiche, che vengono inventati da un gruppo dominante per mantenere il potere, per restare a galla. Quindi di base, in effetti, pure il Mago di Oz, se vogliamo, per certi versi. E comunque in generale ne è piena la letteratura di romanzi o di storie dove appunto un gruppo di potere si inventa una religione per assoggettare le persone. Per farlo, ovviamente, molto spesso usa dei falsi miracoli, e molto spesso questi falsi miracoli in realtà sono delle tecnologie che vengono, delle invenzioni che vengono tenute nascoste alle persone, e gli viene detto che invece sono appunto dei miracoli e delle cose extraterrene, e così, e per indurre stupore e assoggettamento. Esatto. Si trova questa idea in vari libri, in varie storie. Per esempio, vi citiamo un po' al volo, Se continua così, che è un racconto di Heinlein, che appunto è Se continua così è una antologia e... è contenuto in un'antologia. Scusa, sì, giusto. Che è la storia futura ancora più lontano. Esatto, sì, perché non capivo questa doppia cosa. E poi sempre invece di Fritz Leiber, edito in Italia per la Nord, L'alba delle tenebre, dove c'è un nucleo di resistenza allo Stato questa volta. Cioè sì, c'è questo tema dell'assoggettamento delle persone tramite la religione, ma c'è anche una resistenza che chiaramente, per come dire, quasi per contrappasso, si presenta come una setta di adoratori di Satana. E quindi sì, questo qua, non l'ho detto, sì. L'alba delle tenebre, Gather Darkness, è del 43 comunque. Quindi... Vero, esatto, è del 43. E in un futuro lontano, dopo una guerra atomica che ha ridotto la Terra a una sfera butterata di crateri, cosa molto probabile, il mondo è dominato da una dittatura religiosa chiamata la gerarchia, che, forte di una scienza altamente avanzata, tiene il popolo soggiogato, e il giovane prete appartenente appunto alla gerarchia, il frate Jarles, che è pieno di ideali, di giustizia, di eguaglianza, perché chiaramente quando tu sei dentro questi movimenti religiosi pensi di essere dalla parte del giusto di base, o sia in ottica attuale che millenaristica. Sì, che, sì. No? Soffre perché la sua religione non è altro che un cumulo di falsità e di ipocrisie, più che va avanti, più che ne scopre, e decide di ribellarsi contro l'iniqua tirannide teocratica. E quello di Leiber è uno dei, insomma, è un gran romanzo di rivolta, quindi il punto di vista è la rivolta. Aggiungo qui, perché poi abbiamo passeremo a Dick, però ti aggiungo invece Dan Simmons. Su due fronti, li abbiamo già accennati diverse volte, ma li voglio ricordare perché sono molto interessanti. Da una parte la religione che si sviluppa all'interno di una società ipercapitalista che ha già una sua idolatria, cioè il consumo e la religione. Dan Simmons immagina a quel punto, all'interno di questo mega impero galattico, diventi un mix fra cattolicesimo molto più verso il buddismo, roba olistica, quindi perché molto malleabile tutto sommato, certo. Molto meno inserita all'interno di dogmi fissi come sono invece monoteismi classici, e quindi si immagina questo non mi ricordo neanche più come lo chiamava, c'era buddismo nel mezzo, ma era un nome mix diverso. Anche dei nomi. Sì, ora dopo lo ricerco. Ma dall'altra non è che erano morti i monoteismi. C'erano ancora, però erano minori perché soccombevano sotto la potenza del consumo, della tecnologia portata avanti dal commercio, eccetera, eccetera. Quando si arriva al quarto libro, quindi ne passano tre, al quarto libro invece si ribalta la situazione. Ah. Il papato riesce a ritrovare quella forza che aveva perso e dal suo piccolo pianeta dello Stato Vaticano, che è un pianeta grande, comincia a conquistare fondamentalmente e a governare praticamente tutta la parte di galassia intera umana. Come lo fa? Parlavamo di questi miracoli. Non è proprio un miracolo, ma loro praticamente prendono il monopolio di questa tecnologia che ti dà l'immortalità. Questo spiromorfo che ti si attacca sul petto e se te muori da quello rinasci, anche se sei polverizzato. Ah sì? E però questo non è solo che ti rende immortale all'infinito, perché vabbè, di fatto sì, è un grande potere, però nel mezzo dello sterminato universo può essere, insomma, non è poi così determinante. Ma inventano, in questo mondo viene inventata un viaggio nello spazio che supera la velocità della luce di gran lunga, per cui in un attimo tu sei dall'altra parte, ma vieni smaterializzato praticamente. E quindi non si sopravvive. Solo chi appartiene alla Chiesa e quindi possiede la tecnologia dello spiromorfo, per cui tu ritorni in vita, puoi utilizzare quella tecnologia. Da lì il potere politico poi, di fatto, muove gli eserciti. E quindi anche qui, di nuovo, la tecnologia che ha un potere e dà il potere. Esatto. Già. E invece, arrivando a Dick, come anticipavi giustamente, Deus Ire, un libro abbastanza importante di Dick, molto importante di Dick, basti pensare ci ha messo 12 anni a scriverlo, e Dick scriveva, era uno che scriveva comunque miliardi di righe al secondo, quindi insomma l'ha ponderato bene. La trama, dopo la terza guerra mondiale, che ovviamente sappiamo esserci, una nuova e potente religione nasce dalle rovine di una terra martoriata e avvelenata. E in realtà, vabbè, sì, continua ad esserci anche qua la comunità cristiana, che come nell'altro libro che citavi è ormai in minoranza, però si sviluppa insieme anche un altro culto, che è questo culto dei servi dell'ira, Deus Ire. Chiaramente qui c'è un gioco di parole tra l'ira di Dio, ma anche servi dell'ira. Quindi insomma è un po' un certo un gioco di parole, e appunto i servi dell'ira sono questo culto che deifica, mette al centro di questa religione questo certo Carlton Lufteufel, che appunto è il dio dell'ira. che è l'uomo che diede via all'attacco nucleare, quindi Terra sterminata per un attacco nucleare di base, per una guerra nucleare, e colui che di fatto distrugge il mondo è quello che diventa il dio supremo, il dio dell'ira. Questo piacerebbe tantissimo a Trump, penso. Ah, I servi dell'ira, appunto questi cultori di questa religione, ritengono che appunto questo dio, come avrete intuito, non è dio buono, misericordioso, generoso, un po' quell'iconografia che altre religioni ci hanno mostrato. No, lì proprio è fondamentalmente un dio sadico, cattivo, che gode nel torturare gli esseri umani. Quindi di fatto la loro religione è una religione che mette al centro l'auto assoggettazione, cioè l'auto dichiararsi schiavi di questo dio per paura e timore. E il culto di questo dio cattivo di fatto è una giustificazione alla guerra e alla continua sofferenza umana. Cioè, in qualche maniera non ci si riesce a dare pace del fatto che gli esseri umani vivono male e in sofferenza continua, si infliggono sofferenza continua, e quindi ci si inventa un dio che evidentemente è colpa sua se questa cosa succede. E quindi in questa piccola comunità, in particolare qui siamo nello Utah a Charlottesville, questo personaggio, che è buffo perché si chiama Tibor McMaster, si chiama, ed è quello che viene chiamato un Ink, ovvero un incompleto, che è nato senza braccia e gambe. Ricordiamoci che appunto è un mondo post nucleare, quindi dove mutazioni la fanno da padrone, ci sono molte persone mutilate che nascono con mutilazioni. E quindi questo Tibor McMaster, che appunto è un personaggio un po' particolare, un po' strano come protagonista, è un pittore che acquisisce una certa notorietà grazie alla... No. Sì, perché mi sentivo un po' strana. A una serie di protesi artificiali. Quando a un certo punto la nuova chiesa, questa nuova chiesa del Deus Ira, gli commissiona un grande affresco che ritragga le reali sembianze del Deus Ira, quindi di questo dio cattivo, Tibor, questo protagonista, decide di partire alla ricerca di questo dio e affrontare un pellegrinaggio particolare, diciamo, e parte con questo carrettino trainato da una mucca e attraversa questi territori, appunto in un paesaggio post nucleare, come abbiamo detto, abitato quindi da mostri, mutanti, macchine malfunzionanti, cioè tutto quello che vi potete immaginare nel bene e nel male di un mondo post apocalittico. E lui che vuole? Lui fondamentalmente questo suo pellegrinaggio è per cercare questo Carton Lufteufel, questo dio dell'ira, lo vuole fotografare e poi farci questo grande affresco. Però la Chiesa Cattolica, l'altra Chiesa quindi, che come abbiamo detto è un po' in minoranza ma c'è ancora, vuole sabotare questo pellegrinaggio di Tibor e quindi niente, lo seguono fondamentalmente per sabotare la sua missione. Poi tutto ciò va avanti, non vi raccontiamo come va avanti perché è molto buffo anche il finale, è interessante come si sviluppa, però ecco, questo è quello che Dick ha immaginato per noi riguardo a questa religione post-apocalittica. Quindi è un po' una religione, non lo so, fattiva, nasce proprio dal basso in qualche modo, che serve per andare avanti e poi si perde, no? Un po'. Cioè, sì. Non è una religione too cool che potete trovare, appunto, come dicevamo prima, con dei papi, ma è qualcosa invece di più... Sì, beh, un po' quasi una setta, esatto. Post-conclusionata. Esatto, una setta post-conclusionata, sì. Di fatto è questo. Anche perché è un mondo disperato, in preda alla disperazione, che si dà delle soluzioni disperate, ecco. Ricordati che devi morire. il tasto che ho premuto prima perché volevo capire. Possiamo farci tanti giochini. Oh mio Dio. Va bene, vi sono però poi invece in altre situazioni, molte altre situazioni della fantascienza letteraria, non dove la religione è qualcosa di estraneo alla, cioè di esterno, scusate, non estraneo, di esterno alla razza umana, ma alieno. Qualcosa di alieno, esatto, cioè non terrestre, via. Magari sì, sempre razza umana o comunque antropomorfa, fatta di carbonio come noi, ma con appunto religioni che sono lontane, non si aggrappano a questioni terrene come la nostra terra. Per esempio Dune è uno degli esempi più classici, anzi si basa proprio su, cioè è fondante, no? Poi tutta la, non c'è questa religione presente su questo pianeta, no? Sul pianeta dove avviene la maggior parte della, su Dune, insomma, su quel pianeta che ora non mi viene il nome, come è chiamato in quel momento, ma che dà il nome, no, al film, è l'antico nome del pianeta, appunto Dune. E c'è una popolazione autoctona caratterizzata da questi occhi azzurri molto profondi e svariate altre cose, che ha una religione inserita nella società, ma che vede un profeta, che cerca un profeta nel futuro, che deve arrivare per unire le tribù, quindi... Il Quisazzatra. Esatto, esatto. E quindi qui è una religione con le proprie, molto simile certamente, ma con le proprie caratteristiche proprio date da un pianeta desertico, con dei vermoni che vanno a giro e che sono stertento ti mangiano. Certo, loro hanno imparato a cavalcarli, ma insomma... quindi questo è un classico tipo di religione aliena, che però è parte, nucleo centrale di tutta la saga di Dune, fondamentalmente, anche se poi è la politica, è il dominio, però la religione poi di fatto gli permette al protagonista di uscire dalla situazione tremenda in cui finisce nei primi libri. Sì, tra l'altro anche in Dune chiaramente c'è tutta questa gerarchia tipica delle religioni umane, lui la riproduce abbastanza nella religione di per quanto sia una religione di un altro pianeta, però di fatto è evidente il parallelo che Herbert fa con le religioni classiche umane, ecco, quindi tutta la gerarchia ecclesiastica e boh. Tra l'altro nei disegni di che poi vediamo in Diodorowsky, tutte quelle cose là, insomma delle rappresentazioni che hanno molto a che fare, cioè ci ricordano molto vescovi, vari, insomma, prelati. Potrei citare quindi direttamente i Tecnopadri, esatto, che è proprio quello. È proprio quello, è una religione aliena, sì, si può parlare assolutamente di una religione aliena perché si fonde con la roba psichica, con dei poteri a noi estranei, però bello, Jodorowsky, guarda, l'ho messo in fondo, chi è quello dei testi invece è... aspetta, perché Jodorowsky famosissimo, no? Allora, aspetta, scendiamo, si è la luce, guerra... I Tecnopadri, ecco, l'altro è giusto Jan Yetov, che fa i disegni, Zoran Jan Yetov ha disegni dei Tecnopadri, mentre Jodorowsky la sceneggiatura, sì, che è famoso grazie ai suoi lavori con Moebius, ma anche con i suoi lavori singoli, come Juan Solo e altre cose. E a partire dal 1999 partì questa saga a fumetti di fantascienza, che ora trovate tutta racchiusa in uno, ambientata nell'universo appunto dell'Incal, quindi riprende tutto il mondo che aveva creato insieme a Moebius, e la storia è tutto un flashback, cioè inizia il protagonista e ci racconta quello che è stato, si inizia e poi si vede tutto quello che è stato e poi riconclude col protagonista, quindi è un grande racconto, e in questo nostro protagonista Albino si chiama, che ripercorre la sua vita per spiegare come sia diventato il supremo Tecnopadre. Quindi è la sua scalata ai vertici di questa religione che sta facendo la scalata all'interno della galassia. E gli nasce in un contesto povero e disfunzionale, e spinto da un ideale nobile, come spesso accade in queste situazioni, sogna di creare mondi virtuali utopici per i videogiocatori, un luogo di evasione e felicità. Detta così... Vabbè. Ha più senso all'interno, chiaramente, nella narrazione, perché quando hai il mondo palpabile che ti sta raccontando con i disegni, perché è un fumetto attorno, è ancora più... ci sta che voglia fare questo. Nel tentativo di realizzare il suo sogno, Albin entra in contatto con la casta però dei Tecnovescovi, che è una setta che fonda il suo potere sul commercio e sulla tecnologia, appunto. E stiamo riprendendo proprio quello che abbiamo detto finora. Non c'è niente di umano, di conosciuto da noi, quindi è una, di fatto una religione aliena. E c'è quindi questa sua tragica ascesa attraverso esperienze molto negative, spietati, perché questi tecnovescovi sono spietatissimi. Chiaramente spesso la religione porta, no, a ritenere inferiori quelli che non appartengono alla religione, che non credono. Questa cosa ci torna molto, però gli svelano via via tutti i segreti del Tecnovaticano. Fondamentalmente ci sono temi filosofici, metafisici, la corruzione fondamentale all'interno del fumetto, il potere della tecnologia e la creazione di realtà virtuali, insomma, molto interessante. E all'interno dei Tecnopadri vi consigliamo di leggerlo, perché narra la nascita e l'evoluzione di questa dinastia religiosa tecnologica fino al compimento del destino di Albino, che non, di Albino, che non vi dirò. Lo dovete leggere. E sì, poi altri, sempre in questo filone di religioni aliene, diciamo di religioni appunto che non possiamo riconoscere in quelle umane, sono per esempio dentro le cronache marziane di Ray Bradbury, troviamo Sfere di Fuoco. Sì. Dove ci sono, beh, qua chiaramente, no, molto spesso l'abbiamo visto, le missioni coloniali degli esseri umani che vanno a colonizzare gli altri pianeti, ecco, ovviamente mischiamo l'elemento religioso, ci si mette anche di doverli evangelizzare, certo. Perché no? Quindi anche in questo Sfere di Fuoco ci sono due missionari che vogliono costruire un tempio a uso dei marziani che vorrebbero evangelizzare. E poi a un certo punto in realtà si accorgono che questi alieni, che non hanno nessuna conoscenza della cristianità, della religione cristiana, eppure hanno per i fatti loro già i concetti di bene e male e vivono in una morale molto simile a quella che i due missionari giudicano quella giusta, quella retta, ecco. E quindi si crea un po' un dilemma, perché dicono oibò, com'è possibile? E da lì sì, loro la pigliano bene, insomma, e dicono: ah, vedi, questa è la dimostrazione che Iddio arriva ovunque. Diversamente invece succede in Guerra al Grande Nulla di James Blish, dove invece c'è un gesuita che va in questo pianeta Litia, anche lui per evangelizzarli e tutto quanto, e però anche lui scopre che loro comunque ce l'avevano già pensato per i fatti loro e vivono secondo una morale loro comunque che gli permette di vivere essenzialmente bene senza scannarsi a vicenda, nonostante non conoscano il cristianesimo. Lì invece lui c'ha la reazione opposta, non è contento di tutto ciò e dice anzi no, ok, questa roba non è possibile e deve essere sicuramente opera di Satana, e quindi perché senza la cristianità non si può vivere. Esatto, qui è la paura del diverso a tutto tondo, nella costellazione, nell'Ariete, no? Questa Litia, questo luogo che viene esplorato con una stella molto simile al Sole, quindi si aspettano di trovare roba molto uguale. E c'è questa commissione di questi quattro scienziati che provengono appunto dalla Terra, che devono andare lì a studiare. I litiani, una cosa interessante, hanno aerei a reazione ma non hanno telefoni, per esempio. Ah. Non conoscono il magnetismo, ma sanno usare in modo sconosciuto per i terrestri i fenomeni dell'elettricità statica, quindi in qualche modo... Non conoscono il magnetismo, ma sono riusciti a imbrigliarlo in qualche altro modo. Poi c'è il biologo della commissione, il gesuita, appunto, Prado Ramon Ruiz Sanchez, che è il protagonista, insomma, quello fondamentalmente il protagonista, che scopre che appunto sembrano una razza perfetta perché grazie alla loro spiritualità non conoscono odio, delitti, passioni E quindi per quello non gli torna, dice, ma senza la religione Antonia, poi mi devi spiegare come la religione Antonia nella storia abbia portato sempre a non odio, non delitti, ma però. E non conoscono neanche il concetto di divinità, quindi come può esistere un simile giardino dell'Eden separato da Dio? Incredibile. Non se lo spiega, non se lo spiega. E che lì chiaramente iniziano i, come hai accennato, un po' i patatrac, ecco. E senti, forse mettiamo un pezzettino prima di proseguire, che forse abbiamo stordito le nostre ascoltatrici con un sacco di chiacchiere. Sicuramente. Allora andiamo, Alice McBeal. Thank you. E rieccoci dalla tana cantina del Wombat a parlare di fantascienza. Queste sono le porte di Tannhäuser. In effetti ci veniva in mente almeno altre 47 milioni di cose anche fuori dai microfoni che non abbiamo messo. Per esempio in Kill Bill Hall, con la sua religione egizia, degli antichi, cioè di questi antichi dei egizi che tornano e in realtà sono alieni di fatto, e quindi questa commistione tra religione egizia e cioè il dio Horus. E quindi anche Stargate potremmo metterci, perché beh, in effetti dall'altra sì. parte del portale del gate appunto c'è sì, insomma ce n'è un sacco in effetti. E quando parliamo invece di religioni altre, diciamo così, quindi delle religioni che non sono riferibili a religioni che già conosciamo, un altro interessante esempio è quello di La parabola del seminatore di Octavia Butler. Devo dire, traduzione al maschile, con questo maschile sovraesteso fastidioso, perché secondo me Octavia Butler non avrebbe mai tradotto così. Fatto questo non sta, credo. Fatto sta che è un romanzo del 93, Octavia Butler, autrice afrofuturista molto interessante, di cui abbiamo parlato già altre volte. Questo romanzo del 93 è ambientato in un futuro in cui la società è vicina al collasso per scarsità di risorse e povertà dilagante, ora fondamentalmente, l'adesso. E c'è la protagonista, è una giovane donna di nome Lorin Olamina, che ha questo dono di possiede il dono di percepire fisicamente il dolore altrui. Anche qui Octavia Butler, scrittrice femminista, quindi ovviamente qui c'entra di mezzo l'empatia, la capacità spesso attribuita alle donne, anche per insomma appioppargli questo compito di percepire il dolore degli altri. Ecco, questa protagonista percepisce proprio fisicamente il dolore delle altre persone, e quindi durante l'adolescenza lei la passa in un'enclave fortificata nei pressi di Los Angeles, costantemente sotto assedio da bande armate varie, insomma come tutti i tipici romanzi distopici vogliono. E lei durante l'adolescenza appunto sviluppa un vero e proprio sistema filosofico religioso che chiama il seme della terra, in cui lei di fatto individua una nuova strada per il cambiamento, la possibilità di sottrarre l'umanità alla distruzione evidentemente a cui sta andando incontro. E quindi a un certo punto le cose precipitano anche proprio nella sua situazione personale, perché la comunità in cui vive viene si trova in grosso pericolo, viene la sicurezza di questa comunità viene compromessa, la sua casa viene distrutta, e lei decide di intraprendere un lungo e difficile viaggio verso il nord insieme ad altre persone superstiti per cercare di avviare di fondare una comunità dove questa religione, il seme della terra, possa fiorire e crescere. Chiaramente qui ci sono degli elementi utopici, anche di una visione del mondo diversa da quella dominante che Octavia Butler mette dentro, e però c'è anche una componente ovviamente mistica per qualche aspetto, tipica fra l'altro dell'afrofuturismo, ne abbiamo parlato già tante volte. Sì. E però questa è almeno è un esempio un po' più edificante, ecco, sì. Che sennò abbiamo parlato solo di robe tremende. E poi capitolo invece apriamo ben popolato contro la religione, perché tantissimi racconti, storie di fantascienza o di letteratura fantastica comunque di base scrivono come pretesto anche per criticare la religione, per metterla in berlina, per prendersene anche gioco. E ce ne sono tantissime di cose di questo tipo. Al volo c'è l'ultima domanda di Asimov, o la risposta di Friedrich Brown, dove ci sono questi perfezionatissimi computer che una volta attivati diventano Dio. Questa cosa del computer con robot, la macchina sì, che diventa Dio, c'è un po' dappertutto. C'è anche nella come si chiama, nella Guida Galattica. Sì, ora sono molto meno compresse. E no, facciamo prove audio, scusate. E poi l'altra domanda tipica di molta fantascienza così è quella legata alla domanda se i robot abbiano l'anima. Anche questo ha molto di religioso. E per esempio la ricerca di San Aquino di Anthony Boucher, oppure i robot non hanno la coda, che non ho letto ma voglio leggere perché mi piace molto, il titolo di Henry Kuttner. E io voglio leggere l'ultimo, Cristo marziano, sì, di Farmer. Vorrei, non l'ho mai letto, non so proprio, non l'avevo mai sentito. Non so neanche io, però mi ispira. E poi c'è, di cui vi parliamo un po' più lungamente perché ne vale la pena, La stella di Arthur Clarke. Arthur Clarke, devo dire, è uno scrittore che a me piace sempre moltissimo, scrittore famosissimo, insomma, che ha poco bisogno di presentazioni. Questo racconto però, La stella, appare per la prima volta nella rivista Infinity Science Fiction nel 55. Ed è, parla di un gruppo di esploratori che dalla Terra, insomma di esploratori spaziali che dalla Terra ritorna da una spedizione che avevano fatto in un sistema stellare remoto, dove avevano scoperto i resti di una civiltà avanzata distrutta quando la sua stella è diventata supernova. Quindi civiltà avanzatissima, anche coloro che ammirano molto perché insomma hanno modo di vederne le tracce, e a un certo punto appunto viene distrutta completamente da questa stella che diventa supernova. Il capo astrofisico di questo gruppo, che guarda un po', è un sacerdote gesuita. Va in crisi. Per inciso, i gesuiti sono quelli che sono sempre andati in giro per il mondo a evangelizzare, e quindi nella fantascienza, bene o male, sono sempre gesuiti. Anche il primo che scopre lo spiromorfo è un gesuita pure lui. Sì. Ma ci sta. Sì, ma infatti anche questo è molto, molto preciso. E lui sì, c'ha una grossa crisi perché all'inizio, insomma, non si sa, per la gran parte del libro non si capisce perché lui è in crisi, però c'è una crisi mistica, religiosa, è un po' in panico e non si dice. Loro vanno avanti, praticamente riportano quando tornano da questo viaggio che questa cultura di questo pianeta distrutto era molto simile in fondo a quella della Terra, era molto molto bello, aveva una cultura molto avanzata, molto ammirevole per un sacco di motivi. E loro però avevano previsto con diverse generazioni in anticipo che questa stella sarebbe esplosa, e allora decidono di passare gli ultimi decenni di questa loro civiltà a costruire un bunker, un cavò sul pianeta più esterno del loro sistema solare, e metterci dentro una registrazione completa della loro storia, la loro cultura, le conquiste, la filosofia, un po' tutto, e con la speranza che un giorno qualcuno avrebbe ritrovato questa registrazione, che quindi la loro civiltà non sarebbe stata del tutto dimenticata e non sarebbe stata vana. Quindi questo gruppo di esploratori effettivamente è esattamente così come va, lo trovano questa registrazione e apprendono appunto di questa grande civiltà perduta. Ebbene, alla fine, a questo punto qui vi spoileriamo perché non possiamo dirvelo, si scopre perché il gesuita era così in panico, era così in crisi, perché fondamentalmente si rivela che l'anno esatto in cui questa stella diventa supernova, quindi esplode, è esattamente l'anno in cui Dio manda una stella cometa ad avvisare i re magi dell'avvento di Cristo. Quindi praticamente in fondo si scopre che questo era tutto un capriccio di Dio, che aveva deciso di sacrificare una civiltà meravigliosa, bellissima, avanzatissima e un sacco di persone perché lui voleva mandare questo segnale luminoso ai re magi. E quindi diceva, gli serviva la supernova, perché sennò i re magi e quindi torna tutto e distrugge un sistema solare. E quindi il gesuita va in crisi perché scopre questo dio che fondamentalmente è capriccioso e sadico. Esatto, sempre in questo argomento di lotta alla religione è molto interessante Il Signore della Luce di Zelazny, che è del 67, si collega molto a quest'opera di cui abbiamo parlato ora, perché questo lontano pianeta, i primi coloni terrestri, sono talmente andati avanti con la tecnologia che sono diventati degli dei loro stessi. Infatti assumono i nomi di divinità religiose induiste, per esempio c'è Brahma il creatore, Kali la distruttrice, Yama il signore della morte e così via. Contro di loro però si scaglia il nostro protagonista, Sam, che è uno di loro, però caduto in disgrazia, e ora è pronto a liberare tutti gli umani da questa tecnocrazia religiosa tremenda. Oh, venisse anche da noi. Il nucleo del romanzo è più, ragiona più sul concetto di morte e reincarnazione, più che in sé sulla lotta di classe contro... però c'è anche quello, ecco. Però anche sul valore della religione in un mondo sempre più tecnologico e positivista. Quindi nel 67 si posizionava all'interno dei movimenti che criticavano la tecnologia. Troppo materialista. Sì, sì. Beh, del resto teniamo presente, non l'abbiamo detto, ma forse è un po' un sottotesto a tutto ciò. Molta della fantascienza l'abbiamo vista tante volte, soprattutto quella dell'inizio, dei primi decenni, era di fatto si adeguava su un filone positivista. Quindi la tecnologia vista sempre come portatrice di progresso. E quindi materialista molto spesso. Per questo c'è anche moltissima critica alla religione in molta fantascienza, perché sì, perché di fatto cioè, era vista come un qualcosa che si opponeva all'età dei lumi della religione, certo. Quindi oscurantismo. Poi vedremo le cose. No, anche perché di fatto la Chiesa ha perseguitato, cioè pensiamo a Galileo, no? Esattamente così, effettivamente. Poi siamo andati dalla parte opposta. Sì, in qualche modo. Abbiamo deciso che la tecnologia era una religione, quindi abbiamo fatto pari. Esatto. E sempre Arthur Clarke, invece, nel 53, sempre, scrive un altro libro piuttosto interessante che si chiama I 9 miliardi di nomi di Dio. Racconta di questa società americana produttrice di computer che riceve una strana richiesta di noleggio di una loro macchina. Siamo nel 53, quindi i computer erano all'inizio. Sì. Quindi questa strana richiesta da parte di un monastero tibetano, che gli chiede di noleggiare uno dei loro mainframe, e perché devono compilare una lista di tutti i nomi di Dio. E perché? Perché secondo la loro filosofia lo scopo dell'umanità sarebbe quello di trovare tutti i nomi possibili di Dio, che però, attenzione, sarebbero composti da non più di 9 lettere di un alfabeto che in realtà hanno inventato loro. Quindi le possibilità sono sostanzialmente finite, cioè si possono trovare tutti i nomi possibili. E non ci si mette neanche troppo, si fanno un calcolo che per trovare tutti questi nomi ci vogliono 300 anni, e che quindi, però chiaramente non ce la possono fare, 300 anni sono troppi, e quindi sono le combinazioni, secondo loro, sono circa 9 miliardi, insomma. No, scusate, non 300 anni, da 300 anni loro hanno iniziato, fanno la stima che gli ce ne vogliono altri 15.000 di anni, quindi dicono no, vabbè, ci si fa, ma visto che ci sono questi nuovi computer, acceleriamo un attimo. Fondamentalmente affittano questo computer che può terminare il progetto, loro calcolano nell'arco di 100 giorni. Quindi questa ditta dice vabbè, bizzarro, ma va bene, quindi gli invia al monastero un computer e anche un paio di tecnici, perché 53, quindi insomma non è che il computer te lo mando e tu lo usi, ci vogliono anche due tecnici. Ma poi il tibetano sa, sai. Ma infatti, un minimo di alfabetizzazione informatica. Quindi gli mandano questi due tecnici, Chuck e George. Io guarda, mi ci vedo tantissimo. Mi ci rivedo tanto. E, che vanno là e niente, e li seguono questi monaci. Quando arrivano a pochi giorni dalla fine del lavoro, quindi siamo allo scadere di questi 100 giorni, George, uno di questi tecnici, scopre che però i monaci non gli avevano proprio detto tutto, mancava un pezzetto. Che in realtà la loro filosofia prevede che quando la lista dei nomi di Dio sarà completa, l'umanità avrà esaurito il suo compito e pertanto finirà il mondo. Sì. A me mi torna comunque. Ci sta. Quindi... quando la macchina effettivamente... loro decidono, i due tecnici dicono, vabbè, è palesemente una cazzata, ma nel dubbio noi andiamocene un po' prima, si sa mai. Metti che questo esplode, boh, si sa. Quindi la macchina sforna l'ultimo dei nomi e loro se ne erano già sulla strada del ritorno, e c'è questa scena finale di loro che stanno già scendendo a notte fonda verso il fondevalle. Alzano gli occhi verso il cielo e vedono che le stelle a una si stanno spengendo. E quindi con questo finale poetico, un po' zen, finisce il racconto di Arthur Clarke. E a te ti sei spento il computer perché Sto riavviando tutto. Lo so, perché questa è l'apocalisse. Esatto. Per la male delle macchine, questo succede. Sì, allora. Quindi siamo ancora sul filone, cioè questo non era più proprio contro la religione. Beh, anche se un po' sì, nel senso un po' sì, un po' no, lo esatto. Puoi leggere come ti pare. Esatto. Però Clark secondo me ci mette sempre un po' di ironia per in fondo dire, vabbè, ma gli uomini se ne inventano di mille e sono tutte cazzate, però alla fine comunque il mondo finisce effettivamente, quindi cazzate, però... e ti lascia un po' così nel dubbio. Un altro interessante è di un altro mio grande mito, che è Robert Sheckley. Dovremmo fare, me lo sono segnato, una puntata dedicata, una monografica a Sheckley. Perché secondo me spacca, è bellissimo e molto sottovalutato. In Italia non ne sento parlare spesso. Qui, vabbè, non è un grande libro, però è un racconto molto carino che si chiama Il giudizio universale, dove gli uomini vincono, cioè c'è l'Armageddon, la battaglia finale del male contro il bene, e effettivamente gli uomini, gli esseri umani, si sono fatti il loro esercito di robot, vincono. Ma alla fine Dio decide di portarsi in cielo i robot. D'altronde hanno combattuto loro, non gli umani. Per cui è giusto. E questa probabilmente cosa... era Odino, era il Valhalla. Voi non avevano combattuto, hanno combattuto i robot. Venite pure. E infatti, e quindi gli esseri umani rimangono fregati. Bellissimo. Invece per un popolo, perché sono un popolo geloso, citazione dalla Bibbia questa frase. Invece testo di Lester Del Rey, invece qui c'è Dio che si allea con gli alieni che vogliono conquistare la Terra, e quindi si allea con gli alieni contro gli umani e decide, senti, ma io alla fine decido o vediamo, sto con gli alieni, è giusto. Mi sembra, ma perché infatti questo, vabbè, perché bisogna essere uomo centrismo, nel senso, mi dice, ma senti, ma io alla fine ci ho pensato, ma sono meglio loro. E invece Sto ritornando di Ray Russell, c'è Lucifero, l'altro. Bellissimo, cioè, questo mi piace, lo voglio leggere. C'è Lucifero che decide di vendicarsi per essere stato scaraventato agli inferi e quindi torna a vendicarsi. È storia non inusitata, nel senso che spesso accade... è bello perché soprattutto nel mondo videoludico, ma anche nei romanzi, cioè, in realtà, com'è che si chiama il diavolo? Lucifero, in realtà è un rivoluzionario. Sì. Quindi, di fatto, si è ribellato al potere e ha fatto per la fine, mi dici, sta di volersi vendicare. Cioè, certo, non vedo errori, ecco. Ma infatti, mi tornano tutti. Poi c'è Henry, del mio mito Michael Moorcock. Gran roba. Meraviglioso Michael Moorcock, questo l'ha pubblicato, un romanzo che fra l'altro non ho letto, mi era completamente sfuggito, lo dovrò andare a ripescare. pubblicato nel 69. Protagonista è questo Carl Glogauer che viaggia in una macchina del tempo per arrivare in Palestina nel 28 d.C. alla ricerca di Gesù. Cioè, lui si è flippato, è onestamente un personaggio fuori di testa, cioè molto disagiato, scena mille, molto sfigato. A un certo punto ha questa macchina del tempo, lui dice: senti, ma io voglio tornare a conoscere Gesù Cristo. Quindi va, la macchina ovviamente si sfascia perché fa un incidente, si sfascia male, un casino. E, però ce la fa e Carl viene soccorso da un gruppo di esseni che sono... pare, sono da vedere, non so chi erano gli esseni, ma erano, a detta degli storici, una setta religiosa, un gruppo religioso dell'epoca di Cristo, insomma di Gesù, di quando si pensa di... E riesce, quindi lui viene soccorso a questi esseni, si inserisce nelle cerchie evidentemente e trova abbastanza in fretta Giovanni Battista, quindi dice: oh, torna tutto, ritorna, sono nel posto giusto. Ma che è effettivamente un leader di questi esseni, però cioè, il problema è che nessuno conosce Gesù, cioè questo Gesù non lo conosce nessuno. Quindi lui inizia, si mette alla ricerca sempre più spasmodica di sto Gesù, che però non c'è, obiettivamente non c'è. Lui non lo trova, dice, ma non si dà pace perché dice: oh, eppure, ma dai, ma non è possibile, abbiamo fondato millenni di storia su questa cazzata e non c'è. Lui cerca, non c'è. A un certo punto si rende conto che si è creato abbastanza un mito su di lui, cioè su questa persona che gira. Cioè, lui il protagonista, non Gesù. Sì, scusate, il protagonista. Cioè, perché effettivamente, perché lui, io mi immagino, non l'ho letto il libro, però me lo immagino. Cioè, comunque va a raccontare: ma come aspetta questa cosa dei pesci? Ma poi lui predicava questo e quello, no? Avviene la gente, l'ha intorta, e si forma effettivamente una religione. Basata su di lui, sul protagonista, non su Gesù Cristo. Quindi lui decise a un certo punto che per il bene dell'umanità lui deve fingersi Gesù Cristo. Quindi lui impersona Gesù Cristo e si fa crocifiggere, perché così il mondo torna e torna tutto. Esatto. Quindi come è nato Gesù? Così, da un così. Viaggiatore del tempo. Ci sta assolutamente. Com'è bello, Murco, che gli voglio tanto bene. E poi poi ci abbiamo Vonnegut. Vonnegut, Ghiaccio 9, dove Vonnegut di fatto si inventa una religione che si chiama Bocconismo. Il Bocconismo è un Vonnegut è un altro matto. Si tratta di questo credo basato dichiaratamente sulla menzogna, cioè, ovvero, principio fondamentale è che tutte le religioni esistenti, incluso il bocconismo stesso, sono costituite unicamente da bugie. E infatti il libro si apre proprio tipo: tutto quello che leggerai è una menzogna. Esatto. Però, se queste bugie sono innocue in fondo, se ci si dice che sono delle bugie, tutti lo sanno, è alla luce del sole, queste bugie possono permettere a chi ci crede di avere una vita felice. E quindi il bocconismo fondamentalmente serve a farti avere una pia vita felice, nonostante la sua ontologia è quella di dire menzogne. Nel suo romanzo... A fin di bene. Sì, esatto. In questo romanzo il fondatore e unico profeta, perché chiaramente avete visto sempre tutti i monoteismi fondati sempre su una sola persona... si chiama questo Bocconon, guarda un po', che è un santone originario dell'immaginaria isola caraibica di San Lorenzo, che racchiude i propri pensieri in aforismi e poesie raccolti nel libro di Bocconon e niente, e poi gran parte di queste poesie sono scritte nella forma di canzoni calipso. Che vuol dire? Il calipso è una... serie di, è un, diciamo, un genere musicale tipico dei Caraibi. Che a un certo punto ci ha avuto un suo revival anche con nella emigrazione dal caraibica in Inghilterra, in quei posti là, insieme allo ska, il reggae, è arrivato anche il calipso. Però ecco, io adoro Vonnegut anche per queste trovate, che a un certo punto ci butta sta cosa così. Un po' so. È così. E poi abbiamo buone notizie dal Vaticano, di Robert Silverberg, anche lui sottovalutato, ma Silverberg è un grande. 1971 lo trovate tradotto su Urania nel 73, poi dopo l'hanno anche ripubblicato per la Mondadori. E c'è questo gruppetto dove c'è sembra una barzelletta, c'è uno che è quello che le scrive, il narratore, poi c'è un rabbino Mueller, immancabile, il vescovo Fitzpatrick, giusto, e un po' di turiste a caso che sono in un bar via Veneto a Roma e sono lì perché il Papa è morto e ci sono i cardinali provenienti da tutto il mondo ovviamente che sono in conclave e devono eleggere il nuovo Papa. E i ballottaggi indicano tra i papabili i più probabili c'è il cardinale Asciuga di Milano, il cardinale Carciofo di Genova e un robot. Io non avrei dubbi su chi scegliere. Carciofo un po' mi piace, Carciofo... però vabbè. Anche a me un po' Carciofo, devo dire, anche Acciuga, non Asciuga. Asciuga. Il gruppo si divide quindi a un certo punto e inizia a parlare, ne nascono grandi discussioni. Noi seguiamo fondamentalmente le elezioni del conclave attraverso gli occhi di queste persone variegate che discutono, dicono la loro, ma è giusto che Pole un robot permettisi di stare... a fa il Papa, quindi ne parlano e vabbè, niente, e a un certo punto fumata bianca, si scopre che viene eletto il nuovo Papa, il robot effettivamente è stato eletto, aveva le carte giuste, si affaccia al balcone a San Pietro, impartisce l'urbi et orbi e niente, ciao. Perché in tutto ciò, no, la figura di questo Papa robot è potente non solo per la sua capacità di raccogliere consensi tra la gente, ma soprattutto per i suoi calcolatori elettronici che muovono non solo le finanze del Vaticano, ma soprattutto le relazioni con le altre religioni, che a quel punto diventano precise. Cioè, attraverso di lui, per cui buono, non è male. Cioè, il prossimo è un'intelligenza artificiale, il prossimo Papa, evidentemente. Tanto più o meno quello che abbiamo ora è uguale, no? C'è l'incisività più o meno. Sì. Io credevo in un Papa americano, no? Invece, a parte deve scontrarsi con quell'altro, con la zucca americana, l'altro Papa. Esatto, il tecnopapa lì. No, però mi sembra più o meno abbia lo stesso sguardo vispo, sì, sì. Non so, di un blocco di cemento. E vabbè. Senti, poi abbiamo Brennan anche invece. Allora, Brennan bello, perché si chiama il dilemma di Benedetto XVI. Vi ricorda qualcosa? Fate bene. Fate bene perché ci sono state grandi illazioni su questo racconto. C'è un certo livello di complottismo riguardo a questo racconto. Io non lo sapevo, ma si sono create delle sette complottiste che dicono che Herbie Brennan, lo scrittore di questo racconto, aveva capito tutto prima. Prima in particolare di Ratzinger, il fatto che abbia tutta la storia là. Certo. E, allora, 1977 viene scritto questo racconto, per non dare adito, cioè Brennan non poteva sapere niente di Ratzinger. Fatto sta che ipotizza un futuro in cui c'è questo grande dittatore, Victor Ling, che sta ascendendo al potere di questa nazione che si chiama Anderstrad. E l'unico che sembra avere intenzione di fermarlo è questo Papa, il Papa Benedetto XVI, che ha avuto una visione mistica che gli ha imposto di attaccare Ling e di detronizzarlo. E però il Papa ha degli scrupoli di coscienza, perché fondamentalmente va da uno psichiatra e gli chiede: sto impazzendo o no? E praticamente perché ha dei dubbi sul fatto che le sue visioni siano davvero delle visioni mistiche o che sta sbroccando. Cioè, nel senso, è una vita che chiama Dio, non gli ha mai risposto. A un certo punto gli risponde: è vero o non è vero? E ci rimane male. Comunque, l'unica volta che Dio ti dice di andare a ammazzare un dittatore, te c'hai gli scrupoli. Sì, vai, a quel punto vai, hai fatto le crociate, vai. Ti ha fatto fare di tutto. Vabbè, niente. E quindi lui dice, lui va dallo psichiatra e dice: guarda, te lo dico, se tu mi dici che è vero, che io sono sano e che questa è una visione mistica, vado e ammazzo sto dittatore, se no, no, mi dai delle pilloline, vediamo. E niente, e questo è il racconto di Herbie Brennan sul dilemma di Benedetto XVI. Non vi diciamo come va a finire, lo dovete leggere. Allora, sempre in questo filone mezzo contemporaneo, mezzo fantascientifico, no? Cioè qualcosa comunque molto ancorato alla realtà, diciamo, al vissuto, e poi si mischia al fantastico, c'è un cantico per Leibniz. Ah già! Il cantico per... Che succede? Il cantico per Leibniz degli anni 60, di Walter Miller Jr., fondamentalmente una devastante guerra nucleare fa precipitare il mondo in una sorta di medioevo, in cui i sopravvissuti, molti dei quali deformi per le radiazioni, bandiscono per sempre tutto il sapere, perché proprio è stato quello che ha portato alla distruzione di tutto, e cominciano a perseguitare giustamente gli scienziati. Solo nei monasteri vengono copiati e conservati dei libri. Grazie al lavoro certosino dei monaci dell'ordine di Leibniz, che prendono appunto il nome dallo scienziato che per primo tentò di preservare il sapere, Miller ci presenta praticamente uno scenario apocalittico in cui la conservazione del sapere scientifico diventa l'obiettivo primario della religione, di un ordine religioso e di conseguenza della religione, innescando una profonda riflessione sul rapporto religione-scienza. Ma anche qua si innesta in quel dibattito che vi dicevamo all'inizio, dove sì, è vero che gran parte della fantascienza di base viene scritta da persone atee, dichiaratamente, e molto così, esatto, materialiste, però non solo, e quindi si crea obiettivamente un dibattito pure interessante, secondo me. Molto interessante, sono d'accordo. Dall'altra invece abbiamo Ed egli maledisse lo scandalo, anche questo molto buffo e si ricollega secondo me a Benedetto. Lui. Perché Mac Reynolds, l'autore, praticamente Tabber, che è un predicatore, è un predicatore che attira la gente perché è un bravo predicatore, si sposta nelle varie cittadine americane e con i suoi sermoni attira sempre più gente. Ed Wonder, un conduttore radiofonico, decide di screditare Tabber. Quindi il forte della sua popolarità televisiva vuole combattere il predicatore forte invece dei suoi credenti, per via dei grandi sermoni, e cerca di metterlo alla berlina, ma presto si rende conto che le maledizioni che Tabber manda sono vere, cioè si tramutano, in realtà si concretizzano, e quindi è un romanzo che è un po' politico, un po' sociale, quindi poi è tutto un po' una grande critica al consumismo, perché chiaramente il grande cattivo alla fine comunque è il conduttore radiofonico, ecco, quindi contro il consumismo. Perché Tabber, mi immagino, sarà stato un predicatore che, non so, inveiva contro la morale, cioè contro il disgregarsi della morale, del, esatto, fatto che i consumi portano. Esatto. Allora, e quindi la società dei consumi risponde, ma non aveva messo in conto che la religione in questo caso ha una sua concretezza. Madonna. Incredibile, no? Grande racconto. Chiudiamo invece, ce l'abbiamo fatta a chiudere. Chiudiamo con il grande mondo di Warhammer 40.000, che abbiamo più volte, io ho più volte menzionato, perché mi appassiona molto, perché è un mondo imperniato proprio, quello umano, diciamo, la parte dell'impero umano, imperniato proprio sulla religione, che diventa, e non solo, ma è religione tecnologica. Cioè le macchine diventano sacerdoti, le macchine hanno un'anima. Cioè nel mondo di Warhammer 40.000 si ritiene che le macchine abbiano un'anima, e che quindi i protocolli papali emessi dalle macchine sono giusti. e ci sono appunto i preti dedicati alle servomacchine. Tutto ciò si muove intorno a questo imperatore. Praticamente l'imperatore riunisce, lo faccio molto semplice, riunisce i vari imperi umani che erano in lotta eterna fra di loro, grazie ai suoi grandi poteri psionici, che gli permetteranno di creare anche la possibilità dell'uomo di spostarsi nella galassia velocemente, quindi una sorta di iperspazio, viaggio in iperspazio. Lui usa la mente, i poteri psionici. Certo, poi si scopre che per poter continuare ad usare questi grandissimi, è il più forte di sempre, dei poteri psionici, si mangia 1000 umani al giorno, ma questo è un altro discorso. Vabbè, ma quelli sono effetti collaterali. Cioè, se li succia proprio. quindi lui, dopo che è riuscito a riunire tutto, a un certo punto fondamentalmente non è che muore, ma entra in una sorta di stasi sul trono, quindi questo trono vuoto, che diventa la religione massima. Quindi la religione è impernata su di lui, sulla psionicità e sulle macchine, e però poi è una società appunto in realtà costantemente controllata dall'Inquisizione, perché i grandi nemici sono gli dei del caos che vengono da un'altra dimensione e che vogliono corrompere, che ce la fanno a corrompere metà della razza umana, per cui ci sarà una grande battaglia, bla bla bla. Storia molto interessante, molto cupa, l'umanità non ha speranza, di fatto vivrà per sempre in un mondo di guerra e distruzione, accerchiata da tutti i tipi di alieni del mondo, però viaggia, va avanti così. Ma pensi. Però è una religione particolare, appunto, perché si fonde con le macchine, ma anche con poteri psionici, quindi qualcosa di molto, molto spirituale, in qualche modo. Interessante. Però ci sono molti, c'è tutta una saga di romanzi che raccontano queste storie e ora le stanno ripubblicando a chi interessa. Mi hai fatto venire in mente che, parlando di religione, tecnica, tecnologia e macchine che hanno una valenza mistica e religiosa, vi dobbiamo consigliare anche Tecnognosis. Ah, giusto. Tecnognosis, o meglio. Che è stato tradotto tra l'altro in italiano dopo che per anni esisteva soltanto in inglese o perlomeno non in italiano. Libro di Eric Davis, saggio qui, un saggio anche corposo, il cui sottotitolo è Mitomagia e misticismo nell'era dell'informazione, che vi consigliamo assolutamente, è super denso, cioè un libro complesso, di fatto per certi versi di filosofia molto, ma non solo, è molto molto molto interessante e insomma riflette moltissimo in maniera approfondita sul quanto la tecnologia, il mondo tecnologico, la società tecnologica in cui ci troviamo e viviamo abbia assunto ormai un carattere tipicamente religioso, anche di fede in qualche maniera, e appunto detta così è banalizzata, ma è molto interessante e appunto di fatto ci aiuta a guardare la tecnologia con una in un'ottica un po' diversa, un po' più mistica, e insomma interessante in questi anni. Ve lo consigliamo, è uscito per Nero Edizioni, quindi dai. Anche sì, si trova. E comunque si trova online nei soliti circuiti. Vi consigliamo sempre la NAS Archive. Quindi... dove c'è tanta roba, eh? C'è tanta romanzi in particolar modo, fumetti un po' meno. È più, un pochino più complicato, però... sì, romanzi e saggistica, quanta volete. Sì. E quindi sì, ve lo consigliamo anche in formato digitale, così lo potete scaricare. Siamo arrivate. Ce l'abbiamo fatta. Wow. Abbiamo finito la grande carrellata che ci eravamo preparate. Guarda, neanche abbiamo dovuto fare due puntate. No, infatti. Chiaro, ci sarebbe molto molto altro sicuramente a scavare ancora, ne troveremmo, ma ci manca il tempo, avremo bisogno di essere immortali per leggere tutto. Ora, com'è che si chiamava quel coso che ti mette addosso? Lo spiromorfo. Magari ci fosse. Però lo spiromorfo c'ha questa cosa, e se tu muori e ti reincarni, giustamente ricresci subito, ricresci un po' più stupido. No, dai, ancora di più. Se succede troppe volte, proprio ne esci, non sai bene dove sei, non sei. No, non sono pronta per questo. No, infatti, va già, bene. Già, insomma, no, ma poi mi barca meno. A me piace l'effimero della morte. Ma ci sta, ci rende tutto più peperino, più potente. E poi, speriamo di reincarnarci, in un gatto. Sì, in un gatto, guarda, io tutta la vita. Poi comunque anche magari in un'epoca storica un pochino meglio di questa. Ah, Se si potesse. Anche in un altro paese, magari, non lo so. Sì, o un altro pianeta anche. Un altro pianeta. Per cambiare. Piacerebbe nascere a base di silicio, tipo. Per esempio. Non so. Per esempio, sì. Va bene. Nuove possibilità. Su Radio Cash Channel. bene.